Siamo con Paolo Pisanelli per parlare di A partire dall'arrivo, incontri, proiezioni, musiche e letture a Roma il 24 marzo dalle ore 10 alle ore 18 all'Istituto Centrale per la Demo Etnoantropologia a Piazza Guglielmo Marconi 10. Paolo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ci parli di questo progetto così articolato? Guarda, è un progetto credo molto interessante, si intitola Italia dalle molte culture, è una collaborazione con Casa Migrasti, e, appunto è promosso dall'Istituto Centrale della Demo Etnoantropologia e tratta diciamo, a partire dall'arrivo perché diciamo, presentiamo questo progetto con una serie di film un po' storici sugli arrivi degli italiani che emigravano dal sud, andavano al nord, andavano poi a Milano o verso la Svizzera, la Germania, insomma parliamo degli anni 60. Ci sarà Cecilia Mangini che presenta un film che lei ha realizzato in collaborazione col marito, con Lino Del Fra. È un film molto bello, forte, che ha vinto anche a Venezia, il Leone d'Oro. E quello era il viaggio, no, per dei migranti meridionali con le valigie di cartone. Poi c'è anche un altro molto interessante di Libero Bizzarri, altro grandissimo documentarista, e si intitola Metaponto, la via del tabacco, perché parla delle migrazioni interne, cioè delle famiglie di contadini, braccianti salentini in questo caso, che andavano a lavorare a Metaponto oppure andavano a Eboli, insomma andavano a lavorare per dei lavori stagionali e si trasferiva tutta la famiglia. Questo, non so, per renderci tutti conto di qual è la nostra storia. Sì. Oltre a queste cose, noi, ecco, poi ci saranno due lavori miei. Uno riguarda Regina Pacis, un centro di accoglienza che poi diventò centro di detenzione, poi fu chiuso in seguito a dei soprusi che vennero fatti verso i migranti. Era a San Foca. Questo è un vecchio, veramente, è un documentario reportage che io ho realizzato nel 99-2000. È particolare perché era, insomma, una delle primissime, cioè uno dei pochi documentari realizzati dentro un centro di accoglienza che poi è diventato di detenzione. Sì. Noi avevamo molto poco tempo, potevamo entrare 2, 3 ore, mezza giornata. Incontravamo tantissime persone, una babele di lingue. All'epoca era il Salento, no? Era così la Puglia, l'approdo di tutti i migranti, e quella era la via, diciamo, per poter sbarcare in Italia. E quindi c'erano afghani, c'erano persone che venivano dai Balcani, curdi, africani, cinesi, ecco, cioè una cosa incredibile. Poi nel tempo tutto si è spostato verso la Sicilia, soprattutto, e quindi Lampedusa e tutta la costa sud. Penso che è interessante un po' ritrovare anche, diciamo, con documentari di periodi diversi, però queste che erano le rotte dei migranti, e soprattutto capire che siamo stati noi veramente migranti. Su questo ormai è un po' di tempo, no? Anche Migrarti, il bando che è stato fatto dal MIBACT, ha puntato molto l'attenzione sul discorso dei migranti. Infatti ci sarà anche verrà proiettato il film vincitore di Migrarti 2017, che a mio padre, di Gabriela Alan Gutierrez Laderas e Alessio Tambodini. È un cortometraggio che ha vinto nel 2017. È un inizio, non sarà solo questo. Poi c'è la presentazione del progetto, c'è il progetto Facce, che è un progetto che io sto avviando con l'Istituto di Dermatoantropologia ed è un po' andare a ricercare le facce. Io ero un giovane fotografo del 91 quando sbarcarono a Otranto e a Brindisi, ci fu il primo sbarco di albanesi in Italia e fu uno sbarco, per quello che ho visto io, non è quello di Bari con la nave enorme, stracarica, erano piccole navi pescherecci che arrivavano, gente accolta bene. I brindisini furono, anche gli otrantini, eccezionali nell'accoglienza. C'era una specie di popolo di formiche con le buste in mano. Io ero fotografo, feci tanti ritratti di gente sorridente, in generale più o meno sorridente, però insomma provati, stanchi, però erano molto felici di essere arrivati. Il progetto che si accosterà a questo progetto dell'istituto è quello di un po' forse di avviare un documentario, una ricerca che va a ritrovare un po' quelle storie di quelle persone che ho fotografato quasi 30 anni fa ormai. Sì. Senti Paolo, leggo anche che sarà tutto introdotto da letture tratte da un libro, La frontiera di Alessandro Leogrande. Guarda, questo è un incontro che è proprio dedicato ad Alessandro perché si è speso molto, ha indagato molto anche sul discorso dei migranti, con tutto un lavoro che lui ha fatto, sia dentro la rivista Lo Straniero che con le sue pubblicazioni, i suoi libri, I Caporali, La Frontiera. Noi leggeremo dalla Frontiera, tra l'altro nella Frontiera parla anche di Regina Pacis e lui era in quella commissione che entrò dentro Regina Pacis e cominciò a raccogliere le denunce dei migranti, perché purtroppo quei luoghi, insomma, man mano da accoglienza poi sono diventati luoghi un po' di soprusi, quindi Alessandro ha avuto, diciamo, la grande capacità di indagare queste cose, di raccontarle ed è un grande dolore che se ne sia andato così giovane, a 40 anni, in questa. Cioè, è scomparso proprio così, improvvisamente, ed è un dolore per molti questo, quindi è un modo anche di ricordare lui e tanto lavoro che ha fatto in questo senso. Volevo aggiungere anche una cosa, ci saranno anche dei concerti musicali nel Sì. pomeriggio, Admish Kurtai e Usman Koulibaly e le percussioni del laboratorio Civico Zero. Ci saranno varie testimonianze anche dal Baobab, insomma, un archivio delle memorie dei migranti. E volevo solo dire che Admir Shkurtai è autore di un'opera, Kate Irades, che parla proprio di quella nave albanese che fu affondata da una nave italiana. E il libretto era proprio di Alessandro Leogrande, è stato presentato alla Biennale di Venezia, quell'opera. Lui è un compositore eccezionale, secondo me, Admir, quindi secondo me è una grande occasione, è una performance musicale, non è l'opera, insomma, non è un concerto lungo, però penso che sarà molto interessante anche la sua capacità poi di improvvisazione, di raccontare, di raccontarsi lui che è nato in Albania e che da molti anni ormai vive nel Salento, a Lecce. Paolo, in chiusura ci dai anche tutti i riferimenti internet per il programma dettagliato? Sì, guarda, internet si può andare su www.idea.mat.beniculturali.it perché qui evidentemente l'istituto fa parte del NIBACT e lì si trova tutto su Perfetto. idea.mat.beniculturali.it. Ma insomma, per capirci, l'incontro è all'EUR, vicino all'obelisco. Presso l'Istituto Centrale di Demo-Etnoantropologia, che è all'interno del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, di fronte al Pigorini. Benissimo. 24 marzo dalle ore 10 alle ore 18 a partire dall'arrivo. Questo è il titolo per una serie di Partire incontri, dall'arrivo, proiezioni, musiche e letture. sì, Paolo, io ti invitati, tutti invitati. Paolo, io ti abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie, è un museo bellissimo tra l'altro che vale la pena veramente di visitare e di conoscere, molti romani non lo conoscono. Bene, bene. Ti ringrazio. Ciao Paolo. Grazie Federico, grazie.